America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Cannes, Mario Platero. Siamo sulla Croisette, dove normalmente i nostri ascoltatori sono più abituati ad ascoltare reportage sul Festival del Cinema, dal Palazzo del Cinema, ma oggi qui a Cannes ci sono i ministri finanziari, ci sono soprattutto i capi di Stato e di Governo delle 20 economie più importanti del mondo. Ho usato il plurale, ho detto siamo a Cannes, alla Croisette, perché mi trovo con due amici e colleghi, Massimo Gaggi del Corriere della Sera, Maurizio Molinari della Stampa. Siamo tutti e tre al seguito del Presidente Obama per cercare di capire se il G20 riuscirà a risolvere la crisi delle 3C, il contagio, il credito e la crescita. E approfitto subito del collega Maurizio Molinari, che è qui con me, per chiedergli: Maurizio, ti ho sentito prima al telefono, la Casa Bianca è molto impegnata sul fronte della soluzione di questi problemi, e parlando ti ho sentito dire con un tuo collega questa frase: qui siamo alla Casa Bianca, mica pizza e fichi, è vero? Noi siamo al seguito della Casa Bianca, nei White House Press Corps, che è un gruppo di giornalisti che dedicano la propria passione a seguire il Presidente degli Stati Uniti. Ed è vero, scusa, perché diamo l'ambiente, questo autobus che si sta avvicinando di giornalisti giapponesi al seguito probabilmente del loro primo ministro. Scusami Maurizio, vai avanti. E oggi comunque i White House Press Corps hanno vissuto due grandi emozioni. La prima è stata quella del buffet, un buffet straordinario che i padroni di casa francesi hanno offerto, con delle leccornie transalpine straordinarie che hanno sorpreso molti di quelli che erano appena scesi dalla Forza. Maurizio, scusa, siamo in tempi di crisi, ho parlato della crisi delle 3C, se tu cominci al tuo esordio in questa nostra trasmissione parlando di un buffet straordinario, non credo che diamo ai nostri ascoltatori quella sensazione di austerità che dovremmo in qualche modo così affrontare e che prima o poi ci perseguiterà anche a noi in Italia, o no? Ahimè, ma se i francesi dispongono di tali leccorni, il merito è dell'economia di Sarkozy, che evidentemente l'ha gestita meglio di altri. E la seconda sorpresa invece che noi abbiamo vissuto, ovviamente, la sovrapposizione fra la fine dell'incubo del referendum greco e la decisione di Draghi di abbassare i tassi, sono state due positive sorprese per un presidente che aveva iniziato questo vertice denso di preoccupazioni. Ecco, vorrei chiedere a Massimo Gaggi, che è qui con me, corrispondente del Corriere della Sera, al seguito anche lui della Casa Bianca, una delle cose che mi ha colpito è la richiesta di Obama di dettagli. L'Europa ha preso delle decisioni politiche per cercare di risolvere la crisi dell'Eurozona. Qualche dettaglio comincia ad emergere, si sta parlando dell'idea di creare una superstruttura per l'FSF, quindi rafforzare l'FSF con una partecipazione multilaterale. Cominciamo da questa. Massimo, secondo te ti sembra un'ipotesi fattibile? Si farà qualche cosa o avremo di nuovo vaghezza? No, sono progetti molto interessanti, però esistono dei vincoli, come sai bene, dei vincoli istituzionali e politici molto forti, perché gli FSF, per come è concepito e per come sono fatti i trattati europei, per poter funzionare come una banca e avere accesso a questo tipo di finanziamenti, che non saranno finanziamenti governativi, cioè stati sovrani, ha bisogno di una riforma integrale, di rivedere il suo statuto, quindi ci vorranno di nuovo votazioni di decine di parlamenti, quindi sono cose di grande interesse, strutturali, ma che richiedono tempi di attuazione molto lunghi, e queste cose non si risolvono nei tempi brevi imposti da questa crisi, né nei tempi brevi ai quali è interessato Obama, che ha bisogno di evitare che l'America li precipiti a causa anche delle turbulenze europee in una nuova recessione, e quindi che lui stesso venga ravvolto in vista delle elezioni da un'altra ondata di disoccupazione. Per questo che il suo tono di voce mi pare fosse oggi particolarmente preoccupato. Maurizio, sei d'accordo oppure pensi che poi alla fine il presidente americano, la Merkel, Sarkozy, perché poi stiamo parlando di questi tre, alla fine stanno trovando delle soluzioni concrete? L'impressione poi anche dai briefing ai quali abbiamo assistito assieme è che c'è un senso profondo americano di condivisione e sostegno ai contenuti delle iniziative già intraprese dall'Eurozona. Il punto, come giustamente prima diceva Massimo Gaggi, sono i tempi, molto più che i dettagli in questa fase. L'Europa ha indovinato la direzione di marcia, ma tarda incredibilmente a trasformare gli impegni in fatti concreti. E secondo me questo spiega anche il nervosismo di Barack Obama, oltre al fatto probabilmente che stava pensando alla figlia di Sarkozy, e da qui la battuta su Giulia, che ha auspicato il fatto che, insomma, che si assomigli più alla mamma che non al babbo, facendo quasi uno sgarbo al padrone di casa. Sì, e non solo, perché poi invece pare che assomiglia davvero al padre questa bambina, quindi ci sono un po' di incertezza a proposito, o no, pare che abbia un nasino insomma un po' particolare, o no. Comunque si è vendicato Sarkozy alla battuta sarcastica, dicendo che Obama di figlie ce n'ha due e che per 4 anni non faceva nient'altro che dirgli anche tu devi avere delle figlie, e alla fine lui ha detto ho seguito il percorso di Obama. Ma dietro queste battute cosa c'è? Perché sono importanti? Perché ne stiamo parlando? Perché secondo me svelano un rapporto personale fra Obama e Sarkozy che è decollato in questo summit. E lo si vede da quello che avviene oggi, perché appena finisce il G20, termina la conferenza stampa, Obama va a abbracciare Sarkozy in un vertice bilaterale nel quale si parlerà di strategia, militari, Iran, Libia, il legame fra Yorktown e la Libia, cioè fra l'aiuto della Francia alla rivoluzione americana contro l'impero britannico e l'aiuto franco-americano alla ribellione libica contro Gheddafi. Una sostanza che è stata anche criticata dai francesi proprio qui alla Casa Bianca ieri mattina. Ho assistito a un piccolo alterco tra una giornalista francese, ovviamente che si identificava con la sinistra, e i funzionari della Casa Bianca. Lei attaccava, diceva, ma insomma voi state facendo praticamente un endorsement, una sottoscrizione della candidatura di Sarkozy. C'è un'elezione in corso ovviamente in Francia, e dunque c'era questa espressione di preoccupazione. Secondo me è un po' eccessiva, perché poi in fondo tutti e due sono dei capi di Stato e di governo, e dunque fanno anche il loro lavoro. Però forse un fondo di verità c'è. Tu hai assistito a questo piccolo alterco, Massimo, cosa ne pensi? Sì. Era un discorso molto di politica interna francese. Ovviamente Obama è un presidente liberal, progressista, questa giornalista diceva lei in questo modo, dandogli un appoggio così vasto che va molto al di là del G20 e della partecipazione al G20, in qualche modo lo agevola nella sua corsa elettorale. Credo che Obama sia un pragmatico, l'ha dimostrato mille volte, si allea quando ha bisogno, ha degli alleati che sono quelli che sono, e quindi ne tira fuori quello che gli serve. Quindi, così come è vero che la Francia di Sarkozy è una Francia molto più filoamericana e che gli sta dando aiuto, l'aiuto di cui lui ha bisogno, sia sulle questioni economico-monetarie che su quelle di politica internazionale. Questi alleati che Obama sceglie, non c'è Berlusconi. Manca il nostro Presidente del Consiglio. Ho chiesto stamattina come mai non c'è in calendario una visita, mi ha detto non era il momento, non c'era tempo, il Presidente era troppo occupato. In realtà non c'è mai stato un grande feeling tra Berlusconi e Obama, mi sembra. Cosa ne dici, Maurizio? No, non c'è mai stato un grande feeling, anche se bisogna dire che sul piano poi pragmatico delle cose da fare i due leader si sono intesi molto spesso. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Continua l'attivismo sociale di Lady Gaga, che ha appena costituito una nuova fondazione, la Born This Way Foundation. Si occuperà di aiutare i ragazzi che sono vittime del bullismo. Di Lady Gaga, Born This Way. Da Cannes è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore?